E oggi purtroppo abbiamo pochi spazi, però vogliamo affrontare brevemente ancora la vicenda della nostra notizia di apertura, ossia l'arresto dei due assassini, presunti assassini di Cocò, il bambino di 3 anni ucciso e bruciato in un'auto nel 2014 in Calabria. Dice il procuratore nazionale antimafia Francesco Roberti, una barbarie, e non parlando solamente dell'assassinio. Roberto Gallullo, ti saluto, buongiorno del Sole 24 Ore. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Ma parlando anche del fatto che il nonno Giuseppe Iannicelli lo usava sostanzialmente come uno scudo. Sì, questo qui è quanto emerge dalle dichiarazioni rese oggi dagli investigatori del ROS dei Carabinieri. C'è poco da dire, se non trovasse di fronte ad una realtà davvero amarissima. Il traffico di sostanze stupefacenti, che sembra essere appunto alla base di questo triplice omicidio, consente tutto. Vale a dire consentirebbe, se ovviamente delle indagini saranno dimostrate anche in sede processuale fino all'eventuale terzo grado di giudizio, consente che un nonno possa usare un nipote per farsi scudo, per pensare di essere intoccabile, quindi non avvicinabile. Ma è un qualcosa che non può comunque reggere, perché il traffico di sostanze stupefacenti porta con sé una tale dote di ricchezza che ogni gioco è lecito e possibile, compreso quindi quello di un omicidio, che può essere anche incidentale, di un bambino di appena 3 anni. Ti ringrazio, grazie a Roberto Gallullo del Sole 24 Ore. Noi adesso ci fermiamo, c'è come ogni lunedì Mario Platero, lievemente anticipato, ci ritroviamo tra poco. Intesa San Paolo, official global banking partner di Expo Milano 2015. Vi presenta... America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Intanto una piccola notizia: oggi Columbus Day, grande festa degli italoamericani, grande parata attesa sulla Quinta Strada, festa nazionale, l'America celebra Cristoforo Colombo. Vi racconterò qualcosa di più di questo domani, vi do un'anticipazione: il marshal della parata, il gran maresciallo, sarà un italiano, Alberto Cribiore. Ma veniamo alla copertina del lunedì. La copertina è dedicata al dibattito politico fra i candidati democratici, a Hillary Clinton, naturalmente, che si confronterà con i suoi concorrenti domani a Las Vegas. Sarà il primo scontro fra i democratici, sarà moderato da Anderson Cooper, che è uno dei volti più noti della CNN, e le previsioni quali sono? Le previsioni sono che ci sarà una coalizione fra i candidati minori, tutti contro Hillary Clinton. Chi sono i candidati minori? Lincoln Chafee, Martin O'Malley, Bernie Sanders, che tra l'altro è quello che fra gli altri candidati sta creando qualche preoccupazione a Hillary, attaccando soprattutto dalla sinistra, e Jim Webb, un ex generale. Con una grande incognita sullo sfondo, cosa farà alla fine Joe Biden, il vicepresidente? Ho deciso di dedicare la copertina a questo evento perché sarà in questo dibattito che Hillary dovrà davvero dimostrare di avere le unghie, i denti, il carisma, la grinta per poter non solo battere i suoi avversari, ma fare il presidente degli Stati Uniti d'America. Sarebbe la prima donna a diventare presidente degli Stati Uniti d'America. E dunque sentiamo qual è stata negli ultimi giorni la sua strategia. What I know about it as of today, I am not in favor of what I have learned about it. Ecco, questo intervento di Hillary Clinton è un intervento anomalo, è contro il TPP, il Trans-Pacific Partnership, e dice letteralmente, Hillary dice: devo dire di non essere in favore di questo accordo, è un accordo che non protegge i lavoratori, un accordo che non necessariamente rilancia la forza lavoro. Io non che sia contraria al libero scambio, ma sono favorevole a un libero scambio che aiuti l'economia americana, e questo accordo siglato da Obama non la aiuta. aiuta. Ecco, una dichiarazione un po' dirompente, non aiuta Obama naturalmente, ma una dichiarazione molto politica. Perché? Perché Hillary Clinton sta cercando di coprirsi a sinistra e qui emerge la sua debolezza. Ci sono tre elementi problematici per Hillary Clinton. Il primo lo conosciamo, è lo scandalo delle email. Queste email che Hillary faceva partire dal suo server privato e non da quello del Dipartimento di Stato. C'è un'inchiesta in corso, qualcuno è molto preoccupato, alcune fonti a Washington dicono che ci saranno delle rivelazioni che potranno danneggiare ulteriormente la Clinton. Il secondo punto, gli americani sono abbastanza stufi delle dinastie, hanno visto cosa è successo coi Bush, c'è un altro Bush che corre per i repubblicani e non sta facendo bene Jeb Bush in campo repubblicano, non sono sicuri di voler ritrovarsi alla Casa Bianca con Bill Clinton come first husband, come primo marito, oltre che con Hillary come first lady. Infine, la copertura a sinistra. Bernie Sanders sta minacciando Hillary sia in Iowa che in New Hampshire. Si trova in questo momento in avanti nei sondaggi. Bernie Sanders è un senatore della vecchia sinistra, molto liberal, e siccome la classe media continua a soffrire in America nonostante la ripresa economica, sta giocando tutte le sue carte, che sono per una politica più statalista, per interventi maggiori da parte dello Stato, per garanzie sul posto del lavoro, per maggiori tasse. Hillary, che viene dalla sinistra, ma poi si è, come dire, immessa nella linea centrista del marito di Bill Clinton, si trova dunque in difficoltà. Ma gli esperti politici americani osservano che sia l'Iowa che il New Hampshire sono abbastanza schierati a sinistra. È possibile che Bernie Sanders faccia bene, ma Hillary, sia per raccolta fondi che per presa politica nella maggioranza degli altri stati americani, dovrebbe alla fine riuscire ad avere i voti per conquistare questa sua nomination. Well, I have said from the very beginning that we had to have a trade agreement that would create good American jobs, raise wages, and advance our national security. Hillary Clinton che attacca Wall Street. Non possiamo andare indietro, non possiamo tornare al tempo in cui Wall Street si dava le regole da sola. Una delle novità di Hillary è una proposta per una tassa sulle grandi banche per limitare il pericolo di un nuovo effetto domino se dovesse esserci una nuova crisi finanziaria. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Vi ho detto in copertina che avremo una possibile rivoluzione, forse, nel Partito Democratico col dibattito in arrivo domani. Dunque, di Jill Scott Heron, "The Revolution Will Not Be Televised". You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! Intesa San Paolo, official global banking partner di Expo Milano 2015. Vi ha presentato America 24.